Correa è uscito benissimo, l'abbiamo l'anno scorso, io ho confermato che era bello, che era perfetto, così ci è mancato poco, è passato poco tempo per ritornare a capo, vabbè, comunque lasciamo perdere, va, tanto poi lui è morto, dunque la voce bella ce l'aveva solo lui, noi ce l'abbiamo tutti brutta, anche la mia e anche stonata. Vai Gianni. No, la tua è squillante, perché sembra che gridi quando parli. La tua è squillante, non stonata, è diverso, è molto penetrante. Sto parlando abbastanza basso di voce, tu più questa che sono a te legato, per cui ti puoi immaginare. E poi non mi vuole parlare forte. Quando mai, quando c'è da fare qualche collegamento, forse un pochino di tonalità bisogna aumentare, proprio per farsi sentire, che poi non è così importante, ad ogni modo, che ti senta Radio 5, Radio 4, va bene lo stesso, che se ne frega, tanto nel baracchino non te ne dà da mangiare niente. Avanti Marco, risolvi il problema del switching, quello vedi, quello è fastidioso, a me mi dà fastidio, la verità. Ma solo per la ventola ti dà fastidio lo switching, giusto? Te l'ho confermato con la poc'anzi, solo la ventola, in quanto a stabilizzazione di tensione è perfetta, meglio di quello a trasformatore, in quanto a stabilizzazione, in quanto a resistenza, va benissimo. Tanto io ho controllato anche con teste il K, mettendo la massima potenza che assorbe 13 ampere e qualcosa, 13 ampere e 5, una cosa del genere, per cui io credo quello che lui vuole, 30 ampere ce n'è a sufficienza, ammesso che continui, te ne possa dare 25 e ammetti anche che te ne possa dare 20, a quando arriva a 20 ci mancano ancora 7 ampere, 6 ampere, 7, 6, 7 ampere, per cui va benissimo. Mi va benissimo. Dai Gianni. Ma io mi sono trovato bene con Nancy, quello lì la ventola proprio non si sente, adesso per dire si è attaccato il 3009 e ventola non se ne sente per niente, capito? È molto silenziosa. Il 3009 non ha l'assorbimento del K ho già, capita. Tu pensa che il K assorbe quanto assorbe il 3009 di trasmissione, tanto per darti un'idea, no? Per cui vedi bene che a questo punto è ovvio che magari anche che sto andando che sono io in quarto d'ora con 3009 scada che sono io in tre quarti d'ora o un'ora addirittura, ma se tu utilizzi il K stai tranquillo che dopo pochi minuti parte la ventola del raffreddamento, ed è quello appunto che io voglio eliminare il rumore, ma il rumore mi sembra che per evitarla va un po' su e lasciare l'alimentatore chiudo tutto e così almeno non lo sento. Vai Marco. Qua sta continuando a ronzare, adesso gli metto un cacciavite e gli blocco la ventola, è una cosa incredibile. Comunque da nuovo non lo faceva, da nuovo era abbastanza silenzioso, sì, sentivi sempre il soffio, il soffio leggero della ventolina, poi va bene, non voglio essere ripetitivo, non so che dire, c'è la fase calante del post prandium. Gianni, vieni in mio soccorso, aiuto. Cosa c'hai? Non ho capito Marco cosa c'hai. Oh, vedo il segnale ma non sento l'audio. Ma sto uscendo di radio. Colpa mia, quel cordone maledetto del cavo mi ha abbassato il volume. Ah, capo, succede. Ho detto cosa c'hai? No, e vabbè, dopo pranzo no, il sangue fuisce allo stomaco di più, al cervello un po' meno. Poi l'amaro, quindi... Oh yeah, conto di città! Sta facendo un po' di giro per dire che c'ha capogiro dalla cottura. No, per un centimetro di amaro, un centimetro nel bicchiere, quelli da caffè, quei bicchierini da caffè bianchi di plastica, mi usa getta. Ho capito. Ma io con questo caldo, più che acqua e menta, con l'acqua gassata e ghiaccio non bevo. Solo queste due cose. Non bevo altro. Sì, alla fine, vabbè, io ho bevuto Coca-Cola a pranzo, però quella che veramente toglie la sete è l'acqua, l'acqua. Non c'è bibita che tenga, non c'è birra al limone che tenga, l'acqua ci vuole, c'è poco da fare. Poi in estate, cioè assorbire alcolici non è proprio il massimo. Anche poco, mi per dire, io l'amaro già, non essendo abituato, un po' mi mette fuoco in caldaia, capito? E io ti cuoci subito, e vabbè, no, io già... Per queste cose proprio molto molto di raro bevo, dai, magari se vado in pizzeria che mi dico ho digestivo, non vorrei venire a un litro, ma proprio in certe occasioni. Ehi, classico Montenegro, dopo la pizza ci stava bene, dopo aver mangiato, è anche buono il Montenegro. Ma ci sono i cuori che attirano e fanno male, a me per dire l'odore e il sapore dell'anice piace, però è un bel forte. Mamma mia, poi il liquore all'anice, come si chiama? Pucci. Ma Riccardo c'è ancora, interrogativo. Chiamiamolo, Riccardo, ci sei. Mi è venuto, da quando Nicola mi ha messo in testa questo interrogativo a fine passaggio. Porca miseria. Mi ricorda... No, niente. Se la leva se ci pianti o come cosa da fare un cambio? Se la leva se ci pianti o questo è nel codice da amatoriale o avanti break. Avanti break. Saluti a tutti, Alfa 21, buonasera. Ciao Sergio, ben sentito, cordialità, avanti. Ok, dai, vi stavo ascoltando, adesso non ho capito bene chi tutto c'è, comunque saluto a te, Antonello e Marco, voglio dire, Giulio e non so chi altri, avanti Giulio. Okay, ciao Sergio, me l'ho ascoltato dopo un bel po' di tempo. Sì, appunto, stavamo commentando un pochino la radio del Riccardino, poc'anzi, che tenendola come gli abbiamo detto ultimamente, l'ultimo passaggio che ha fatto di lasciare lì, che per lui va bene, mentre invece non andava bene per Riccardo. Non so se tu stai usando come stessa regolazione, e va bene, così va bene, dai. Non è molto alta la radio, però va bene così. Tanto per aumentare il volume ci pensiamo noi, caro Mario. Non c'è bisogno che ci pensi tu. Aumentiamo noi il volume e ti sentiamo più forte. Comunque per me va bene. Avanti Sergio. Ok, no, io sono più per gli apparati un pochettino più semplici, con poche regolazioni e tanta efficacia. L'importante è farsi ascoltare, e quindi un buon microfono, una buona antenna e questo basta, dai, se no stiamo lì a regolare tutto il giorno, non ci passa più. Concordo in pieno. Anche io. E quegli apparati lì sono tutti da regolare, da fare. Diciamo che se una volta che li metti in sesto dovrebbero stare così, ma a volte perdono anche la regolazione, capito? No, però poi alla fine prendi, tocchi, sposti, fai e là, quindi è una radio così più semplice, a volte dà più soddisfazione. La piatti, la accendi e senza fare tante regolazioni, ti sposti sui canali e comunque ti fai sentire, l'importante è quello, dai. Vabbè, lo so, tutti li hanno provati con le radio lì, ma io ne ho avuto due, ma le ho subito vendute, perché un po' mi hanno... è quello che mi diceva bassa, è un altro che mi diceva alta, è un altro che diceva che lo disturbavo, è un altro... cioè, mi sono rotto le scatole, l'ho preso proprio. Sì, ma c'è quello il discorso, con Gianni, una volta che è regolato, secondo me basta lasciarlo così, adesso... Io, tu pensa, mi avete detto che con questo microfono per me va meglio, avete mi dato un microfono da 170 a 180 euro e ne sto usando uno a 45 euro e va bene, e nessuno mi dice più niente, solo a volte che posso magari quando lo spolvero posso girare appena appena potenziometro, ma so già come si fa, abbasso appena un pelino e tutto è inutile. faccia il culo, come ieri, così ieri tu me l'hai detto, ti ricordo, appena sono entrato, io ormai lo conosco, così ho già, non è che... Probabilmente può essere anche il difetto del radio, sia ben chiaro, no, non è detto che tutto vada sempre alla perfezione. Vabbè, dai, avanti Sergio. Dai, quindi comunque vi ascolto tutti sempre molto bene, e l'importante è che quando entro non sto lì a regolare, a fare molte regolazioni, perché non ho neanche il tempo e la voglia di stare a combattere con queste cose, che è soltanto una passione, è un po' diciamo che si alternano tra altre cose, quindi mi fa piacere solo ascoltarvi sempre bene e che mi sentiate nonostante la posizione, perché poi siamo un po' in una zona non aperta verso il produttore, ma poi un po' negativa, e di lato c'ho Sassari, dietro c'ho Senno, Risorso, Osilo, quindi non è che pretendo chissà che cosa. Sì, ma esci bene, se non è che sei riuscendo male. Vai bene, tranquillo. Qua arrivi 9:30, figurati. Non so, già noi siamo vicini, quindi so che non ci sono problemi, però molte volte altre posizioni magari sono più un pochettino più difficoltose. Ad esempio non ascolto molto bene zone tipo, che ne so, Sennori, ho difficoltà a volte ad ascoltare anche a quelli di Osilo, oppure magari anche altre zone un po' fuori mano. No, io invece Sorso, Sennori, Osilo, li ascolto tutti. Ho molta priorità verso il mare, però non ho molto varco verso i paesi, verso, cosa ti posso dire, Campomera, tutta quella zona lì, e dopo, capito? Sì, mi ascoltano, ma basta. Lo so, perché la nostra posizione è comunque un po' impedita, perlomeno io davanti c'ho San Francesco da un lato, poi qua c'è tutto il costone della parte alta di Monte Bianchino, che comunque un po' sicuramente mi dà negativo come zona per quanto riguarda gli altri paesi, tipo Ossi, Florinas, Proaghe, eccetera eccetera. No, questi vicini io già arrivo abbastanza bene, però come ti sposti verso cosa? Verso Campena, quella zona lì, mi viene un po' in salita. Mi hanno sentito a Olbia mi hanno sentito che è molto difficile arrivarci, e mi ha sentito come si chiama? Vabbè, il camionista. Mi ha detto che sentiva solo a me che rilanciavo e agli altri non li sentiva. Però era roba di propagazione. Domenico Tarzanetta, adesso mi è venuto il nome. Qui prendi male. È successo. Giulio. Sono qua, sì. Beh certo, ogni stazione trasmittente ha la sua posizione, chiaramente ci sono i dati buoni e i dati meno buoni, dove appunto si riesce ad arrivare bene, dove magari in altri posti meno bene, ovvio. Però in linea di massima diciamo che già ci riferiamo un po' tutti, eccetto qualcuno, io faccio anche il nome, intanto tutti ve l'abbiamo sempre detto, da Muros a me non mi arrivano molto bene, mi arriva basso e quasi sempre inizialmente sporco, poi magari riesce a rimediare, mette a posto e riesco anche a sentire, però io sono sempre dell'idea, è sempre questione di antenna, per me è sempre questione di antenna, visto e considerato che la distanza non è così tanta, sono appena 15 km da dove sono io, per cui cosa posso dire io allora, che sono sotto Sassari, che in realtà sono sotto Sassari, perché io essendo più ai punti sono 90 metri sotto il livello di Sassari, per cui vedete bene che è sempre una questione di antenna e soprattutto di posizione, ovvio, questo è, non ci sono dubbi, è chiaro che poi in altri posti possa arrivare meglio, in altri posti meno bene, questo è normalissimo. Vabbè, dai, riprendi Sergio. Ok, va bene, dai, lo so, quello che dici è giusto, è stato anche dall'esperienza, quindi non fa una piega. Va bene, dai, io adesso sono entrato così giusto per salutarvi e riprenderò più tardi, adesso ho alcune cosette da concludere qua. Vi saluto tutti e grazie per avermi fatto entrare, alla prossima, dai, riprendi riprendi anche Gianni e saluto anche a Marco e ci sentiamo presto. Ehi, dai, ciao Sergio, ciao, dai, buona continuazione di serata, dai. Avanti Marco. Marco, cioè, lo prendo io a salutare a Sergio, ciao Sergio. Salutoni, fate sentire, siamo qua. Bene, bene, è così già, purtroppo le stazioni del baracchino sono così, che si trova in una buonissima posizione, a campo aperto quasi dappertutto, quasi, non dappertutto, ma quasi, mentre invece chi ha meno possibilità e soprattutto meno altura, allora la questione comincia a essere un po' più problematica, però è via di massima. Se uno si fa un buon impianto l'antenna già si risolve sempre, visto e considerato che l'abbiamo sentito, abbiamo fatto tante volte anche collegamenti a lunga distanza insieme, con il segnale che arrivano dall'altura, cioè intendo dalla parte alta come dove Roberto, dove Claudio, alla parte bassa dove sono io, sempre con lo stesso segnale. Non abbiamo avuto modo di sentirlo tantissime volte, soprattutto quest'anno, Gianni, ti ricorderai, no? Eh sì, ma io ho muro per dire, lo ascolto 7 se è staccato e 9 se è attaccato, forse dipende anche dalla zona. Ultimamente sta uscendo benissimo, che da Reginto sta uscendo bene. Però ci sono stati dei periodi, in effetti, che forse la lantenna, le stazionali che aveva, non lo so cosa era, non ci va tutto disastrato, quello sì. Però adesso, ultimamente, c'è una radio che è una pompa, il segnale è buono, solo che deve attaccare, puoi uscire forte verso 9-9-5 e deve attaccare. Anche 9-5 mi è arrivato. Sì, sì, ma il discorso è questo, Gianni. A me quando è attaccato mi arrivo a 7, senza lo 7 e riesco ad ascoltarlo, non fortissimo, però riesco ad ascoltarlo, sempre che utilizzi un baracchino che non esca tutto pieno di scariche o un microfono tutto quanto disastrato. Ci sono dei momenti che esce bene, anche se con segnale basso, però lo sento bene. Non mi interessa il segnale che sia alto, non mi interessa che riesca a sentire il radio. Poi se non arriva, sentiamo 5 per forza, cioè radio 5 per forza, e va bene che non possa sentire anche radio 3, ma chiaro, pulito. Il problema comincia a esserci quando c'è un po' di QRM, ad esempio nel momento che c'è la propagazione, che allora è difficoltoso veramente riuscire ad ascoltarlo, perché si sa, la propagazione sale, e lo sovrasta, e lui, per cui non è facile per me allora sentirlo. E io ho fatto sempre da quell'idea, sì, attacca il lineare, fatti sentire, e sono contento, però il motivo principale è sempre l'antenna. Se lui mettesse veramente un'antenna performante e più alta, visto che avete sempre detto tutti, io non lo conosco, non so nemmeno dove abita, che l'antenna che ha è molto bassa, poi gli faccio anche questo discorso. Lui come paese è a 303 metri sotto il livello del mare, io sono a 195 metri come borgata qua. Per cui non avendo la ragione, perché lui a me mi sente bene, mi sente e io non debba sentire bene a lui. Ecco, questa è la difficoltà che io voglio chiarire, o già. Lui davanti c'ha il mascari, c'ha di fronte, capito? È quello che lo impedisce forse. Dove ci sono le gallerie, quella zona lì che magari non riesce a uscire. E io cosa ho davanti verso lui? Non sarà lo stesso tragitto? Vabbè, certo che sì. Ma lui è uso, come ci sono tante altre persone, hanno detto che mettersi un'antenna, non se la metto, e tu sono così, c'è poco da fare, l'ha preso la modo loro. Se no lì non avrebbe messo un'antenna più performante, che come hai detto tu è un palo più lungo e sarebbe uscito ancora meglio. A me arriva bene, dico la verità, perché la zona forse è diversa e riesco a riceverlo meglio, però non è a tutti. E non dire che tu arrivi forte da uno e poi dagli altri non arrivi, capito? Dovresti arrivare un po' più debole, ma da tutti. Appunto, ci deve essere una radiazione omnidirezionale in maniera omogenea, no da una parte sia dall'altra, no. Non va bene così, perché non sono solo io che lo sento male quando c'è un pochino di QRM, perché anche Massimiliano ad esempio non è sempre che lo sente bene, basta che ci sia un po' di QRM anche lui fa difficoltà. Lo stesso quando c'è un po' di QRM fa difficoltà a portarlo, insomma il discorso è sempre quello, per cui io sono sempre dell'idea, ma per una cosa l'antenna, come dico, il cavo baracchino da 10 dollari e antenna da 100 dollari, quello è quello che conta per poter appunto farsi sentire, perché la potenza numero uno della stazione trasmettente è l'antenna. Se tu hai l'antenna buona, performante, ci riesci ad arrivare un po' dappertutto e in maniera discreta. Non dico che devi arrivare a bomba, nessuno pretende che uno possa debba arrivare a bomba nella maniera più assoluta, però se tu mi arrivi da Santiago 7, 6, 7, se permetti di arrivare almeno 3 devi arrivare, no? Perché se no, allora cosa devo dire? Con il baracchino che lo serve, con l'antenna che non è performante, io l'ho preso così già. Sì, ma purtroppo lo sai cosa c'è? Che lui ha la passione delle radio antiche, delle radio, e quelle radio di oramai hanno fatto il loro corso. Ci hanno, diciamo, sono usurate, eccetera, eccetera. Ho visto quando acqua da messo il Dylan come esce bene. Esce di lusso, col Milan e con il microfono MP5 esce molto forte, ma bene però, e ha una bella, addirittura è anche troppo forte la modulazione, figurati, però magari lui vuole rispolverare alla passione di queste radio, le rispolvera, le riaggiusta, magari riaggiusta una cosa, si rompe l'altra, sai com'è, no? Sì, capisco che magari avendone tante un po' le fai girare un po' tutti, però se permetti devi anche pensare che in un qualsiasi devi farti sentire, è inutile stare via a girarci sempre attorno e a provare, a riprovare, perché no va bene. Poi ho capito ancora una cosa, tante volte l'abbiamo sentita, non solo io, l'abbiamo sentito tutti. E se bene, poi il punto in bianco sparisce, boh, e non lo sentiamo più. Come mai? Questo ancora non ho capito cosa succede. Ogni tanto succede. E vabbè, si accontenta così. Dai, Giulio, adesso ti lascio che vado a mangiare. E dopo, giù il cane, magari entro più tardi, quando c'è più fresco. Adesso vado a fare una passeggiata al fresco. Sembra che ne trovi di fresco, anche mi pare che c'è ancora l'usone. Beh, ancora già c'è caldo, quello che è vero. Comunque, va bene, dai. Adesso io ho fatto un errore l'altro giorno. Stavo attaccando un supercar, stavo attaccando. E era tardi, sono entrato qua nella camera senza accendere la luce. Sono andato ad attaccare gli stilotti e sbagliatamente ho invertito la polarità e avevo bruciato il re, cosa che non mi era mai successo. Vabbè, oggi l'ho messo a posto, l'ho riacceso perché non accendevo più, oggi l'ho messo a posto, ho cambiato il diodo, insomma l'ho acceso, però non trasmette, evidentemente ha bruciato anche i finali, adesso l'ho sostituito ai finali, ho già. Pazienza, non fa niente, c'è tempo per aggiustarlo. Ma è fusibile, non è partito? No, il problema è quello, che ho usato un cavo non c'era fusibile. Il problema è quello, già. Era partito il mio, era partito, quello l'ho messo, vabbè è un attimo vecchio, non è che ce l'ho da tanto tempo, è vecchio, però, insomma, al buio così al tavolino sono andato senza stare accendendo la luce. Ho preso e ho sbagliato un tirando i 10 minuti. Come ho attaccato, tac, subito. E c'è spento. Vabbè, pazienza. Però adesso ripeto, non l'ho riacceso. Adesso purtroppo devo cambiare il finale. E se non se lo lampo non se ne parla più. E che bello che tanto già ne ho altri. Vabbè, magari già una cosa facile. di cambio finale va di nuovo a posto. Lo so, so cose che possono succedere, ma non è mai troppo avere il fusibile nel cavetto di alimentazione. Io sempre ce l'ho il fusibile. E addirittura in certi ne ho anche due, perché c'è un apparato che praticamente c'ha l'attacco a accendisigari, visto che gli alimentatori ce l'hanno, gli ho messo l'attacco a accendisigari e c'è sia nell'attacco a accendisigari che nel cavo. Quindi è protetto al 100%. E siccome ho utilizzato lo stesso cavo, io di un altro barattino, però qui davanti nel tavolino, e ho messo lo sinopo dietro che è uguale, no? E ho attaccato. Poi sono andato a tirare i sinotti nel alimentatore, quello da 7 ampere che ti stavo dicendo, e lo sai buio, non ho acceso la luce, convinto di aver fatto bene, invece ho mentito la polarità ed era saltato per quello, ma pazienza, non mi metto a posto, non è un problema. È una cosa che posso fare io, se ci riesco. Se non ci riesco, già c'è una cosa, già c'è lo spazzino che passa tutti i giorni qua a tirare il secco, e non sono il secco, per cui non è un problema. Avanti, già. Sì, vabbè, dai. Sono cose che succedono giù. Tante volte basta una distrazione, una cosa e ti frega. Già lo so, però ci sono alimentatori che entrano in protezione, quando tu li inverti un po' i pulsi si spengono, capito, automaticamente. Come quello che ho io da 50 ampere entra in protezione, anche quando c'è sovraccarico di... ci hai attaccato troppa roba, ti si spegne. Si spegne e quando poi tu spegni tutta la roba e ne accendi una in meno, come fa la luce adesso, vedi, quando c'è troppa roba si sta. Sì, cioè, ci sono anche quel tipo... No, ma se per quello il switching che ho io, anche quello vuole protezione, non è un problema, ma io l'ho attaccato all'altro alimentatore, quello che ti stavo dicendo, che è il trasformatore, alla melle, e dunque è lì che ho sbagliato. E se fosse stato quello switching, magari non sarebbe successo niente, perché aveva protezione, ed ecco che... Sì, è abusivo, non è un problema, tutti quelli possono riguardare la vita oggi. Apri le scatole, torni in un altro e buonanotte, intanto già ne hai di apparati. Cosa, vabbè, il superstore è un bel apparato e quello è un peccato, perché è bello. Infatti il superstore è bello, è la 360 FM, 120 canali. Vabbè, comunque mi piace anche il 6009, che è sempre superstar, è a panettone, 6009, quello era anche parecchio watt, 40 watt, mi sembra che da 40-50 watt addirittura, è espandibile a 400 canali, insomma un sacco di cose, è sempre un superstar, anche quello. Però anche il 6009, come quello che hai tu, mi piace moltissimo. Quello va benissimo, per me quello lì è un ottimo apparato che non ha niente da indicare al Galaxy Saturn Echo come modulazione, parlo come modulazione, poi quando va si sa gli strumenti, è tutto è diverso, però come modulazione non ha niente da indicare secondo me. Sì, io mi sono appassionato a questo apparecchio qua proprio perché ho sentito a Marco Condor come usciva. Mi piaceva molto la modulazione e ho fatto di tutto per averlo. Anzi, lo stavo per ordinare e poi mi ha telefonato quella persona e niente, mi ha detto che lo stava vedendo, se mi interessava ancora, ho detto di sì e me l'ho preso. Nuovo di zecca, non c'ha un graffio, con me non sopra ancora adesivo c'aveva, tutto nuovo, è come se l'avessi comprato alla fabbrica, uguale. Sì, lo so, e se l'aveva pochissimi giorni, non è che se l'aveva molto. Cosa ha fatto? Ha fatto se no 3 ore di modulazione in tutto, in tutte le volte che l'ha usato, Quindi lo so già, è fatto bene a tenere quello perché, intanto perché è una persona in gamba che lo ha tenuto bene e so che lo tiene bene le cose. E poi è fatto bene a comprare quel tipo perché è un tipo di barattino che va molto ma molto molto bene. Oltre che esteticamente è anche bello, a me piace, ognuno chiaramente ha i suoi gusti, ma a me piace molto. Sì, è bello, se io guarda, stavo cercando quello tutto cromato che mi piaceva un bel, ma bello, tutto molto. Non sono riuscito a trovarlo su internet, se no avrei preso quello tutto cromato. Ma è bella anche questa, tanto la cosa che si vede è la parte di davanti, non è che vedi altro. Per cui ho giù. Arrivati siamo, nel senso che vedi solo quello. L'unica cosa che gli ho fatto è che gli ho abbassato i watt e basta, tutto lì. Ho messo un watt e mezzo, perché tu lo sai benissimo, se li attacchi, se no distorci. Allora, era mi pare 10 watt che dava i 20 in banda laterale. Ma io l'ho abbassato in AM e boom, basta, tutto lì, non ho fatto altro. Sì, quello sì. E anche un pochino di più, lo stesso, con quello mentale, non solo a watt e mezzo. Quando è da anche 4 già, non distorce assolutamente, il 747 comincia a distorcere quando incomincia a superare i 5-6 watt, allora un pochino di saturazione incomincia a sentirsi, ma se metti anche 4 watt non distorce, nella maniera più assoluta, per cui va bene, comunque non è un problema, intanto 1,5 sei più tranquillo, sai che attacchi e ti dà al massimo tanto meno, che te ne dia 80, che te ne dia 75, la differenza non è poi così tanta, per cui va sempre bene, come ti sentono con 80 watt ti sentono con 75, non è un problema, già va bene, tieni conto quello perché è un bellissimo baracchino, a me piace la verità, mi è sempre piaciuto il tuo livello. Io tutti li tengo conto giù, però questo qui c'ha 1,5 watt e da picchi verso 3-4, dai, da picchi così quando parli. Quindi l'apparecchio va benissimo, ma se tu vai a guardare nel 747 c'è scritto che li puoi dare dai 5 ai 10 watt una palla, perché se dai 10 watt distorce, secondo gli apparecchi, perché gli ho dato 10 watt in certi apparecchi va bene lo stesso. Sì, già, adesso ti voglio spiegare una cosettina, ti voglio spiegare, perché tante volte la gente probabilmente non se ne rende conto. Non se ne rende conto di questo particolare. Se tu gli dai per dire 10 watt, è chiaro che ti distorce, perché quando muovi non sono più 10 watt, ma diventano 15, diventano 20 anche a seconda del baracchino che usi. Ed ecco che ti manda in saturazione l'alimentatore lineare. Ma se tu hai un'entrata bassa, 4 watt, quanto può uscire? 10 watt, 12 watt, massimo. Ecco che allora è sopportabile. Perché bisogna considerare quello, Gianni, non è solamente il discorso portante, ma devi considerare la portante modulata, devi considerare quello. Ecco per quale motivo la gente non riesce mai a capire e tante volte esce saturo. Perché? Ma gli saranno 5 watt, 6 watt, sì, però ne hai di picco, magari ne hai 30. Dunque è quello. Chi ti fa distorcere è quello. E la gente ancora, tanta gente non ha capito questo fatto, o già. Sì, quello è vero, anche perché per dire col Midrand, quello modificato, per lui è un watt e mezzo, però da picchi a 12, capito? Da picchi a 12. Appunto, io devo considerare quello. Se no siamo sempre da capo, siamo. Ma siccome siamo CB e non siamo troppo esperti, mi ci metto anch'io. Io queste cose le so, se permetti io le so, e se dovessi un nome da avere l'alimentatore lineare lo tengo in considerazione queste particolari, a differenza di magari qualcun altro che io sto usando 6 watt dall'alimentatore me sopporta 10, sì, balle sono 10, te ne sopporta di portante, ma poi ci aggiungi una modulazione, diventano molti di più di 10, e ecco che allora va in saturazione. È questo che la gente deve capire una volta per tutte, solo che la gente, tante persone stanno solo accendendo il potenziometro per schiacciare la portante, batte, parlare, tutto lì già, poi tutto il resto, vabbè. non è colpa di nessuno, sia ben chiaro, perché non tutti devono essere bravissimi a riguardo. Vabbè, magari sono cose che non ci pensi, capito? Le sai, ma non ci pensi nel momento. Vabbè, dai, io ti saluto, giù, che devo andare a cucinare, se no non mangio nulla oggi. Ciao Giulio, dai, buona serata, grazie per il posto, ci sentiamo, dai. Ciao Giulio, hai cambiato il tutto, dai, alle prossime, ci sentiamo, ciao ciao, buona passeggiata. Ciao, ciao. Ciao Gianni e ciao Giulio, dai, sentiamo le prossime, anch'io adesso piano piano comincio a accendere la TV e rilassarmi un po'. Ciao a tutti. Ciao Marco, se poi vuoi fare un pipistrello magari iniziamo più tardi. Mi sta venendo a greggia, la verità, entrare di notte, nonostante ci sia più fresco, sto preferendo la TV, qualche film magari anche mio, vecchio, DVD, anche videocassette, qualche cosa passivamente, mi capito, guardare senza parlare, però, se no mi viene il caldo. Va bene, fate voi, io magari entro, poi se c'è gente, se no mi accendo la TV. Ciao a tutti. Ciao, ciao, già, alla prossima. Ciao Marco, anche tu stai chiudendo? Allora in quel caso lì ti saluto, eh? Alla prossima, ci sentiamo. Tu fai facendo la notte in ascolto, io lo faccio in ascolto tante volte e ciccia, ma non quando c'è qualche questione interessante, che pur si parla di cretinate preferisco la televisione. Marco, ci sentiamo allora, ciao, alla prossima. Sai cos'è? Avrei voluto quell'alimentatore switching senza ventola, per metterlo volendo anche in camera, in modo che con questo ricevitorino Uniden potevo sentire la 27, con antennino suo incorporato, mi telescopico, perché riceve la M per fortuna, invece quello portatile la M non la riceve. Adesso praticamente ho solo un alimentatore, anche volendo non posso metterne uno in camera, dovrei trasportarlo ogni volta. No, è una seccatura. Va bene. Dai Giulio, sentiamo quando capita. Non sto entrando molto, è la verità. Già il calo della. Un calo dell'hobby, un po' della passione, più il caldo, e quindi 2 più 2 fa 4. Ci sentiamo. Ok, ciao, ciao Marco, sì, invece, diciamo che c'è poca attività in frequenza, là. Il discorso è quello. No, io chiamo anche la verificatore da 30, che per un malattino che l'ascolto va ugualmente bene, no? Non è un problema. Quindi, ma è un alimentatore di vecchissima data, ma proprio vecchio, ma funzionante, l'ho utilizzato anche poc'anzi per fare quella installazione a questo pezzato che stavo dicendo, che poi tra l'altro la devo completare perché dovrò sostituire sicuramente il finale, perché accendere adesso si accende, prima non si accendeva, adesso si accende, però è tutto, il discorso è quello, evidentemente le versioni di polarità mi ha bruciato anche il finale, o perlomeno il prefinale almeno, ma comunque, e poi quando cambi il finale devi mettere anche il prefinale come regola, che non avrebbe senso cambiare solo il finale. Vabbè, dai, ci sentiamo, ciao Marco, alla prossima, ciao ciao. E poi fai anche le tarature del bias o come si chiama, no? Ok, ciao Giulio, ciao ciao. Ok, ciao ciao. Adesso è 13 minuti, non penso che abbia la macchina veloce. se non va berrato, se non ha cambiata, c'è ancora la multipla. Come dire, secondo me è molto brutta, dentro di funzioni e di estetica è veramente brutta, come il mio parere. E io te l'appoggio. Non mi piace manco a me, è molto spaziosa, quello che vuoi, però come macchina proprio non dice niente. Io dico sempre, chi l'ha disegnata secondo me era ubriaco o drogato. È sempre una questione di gusti, Riccardo, magari c'è qualcuno a cui piace. Io ho visto gente mangiandoci la pizza dentro, capito? È molto comoda, ti puoi anche trasformare, puoi fare il tavolino per mangiare, capito? Lo so, ti piace, però è strano, hanno fatto un design strano. Era meglio la 600 multipla di una volta. Tu non l'hai conosciuta la 600 multipla, non lo sai com'è. Vista com'è, vabbè, lo so com'è, però sicuramente è più bellina di quella, perché quella è più strana. C'è chi piace, le questioni di vista, a me non piace. E beh, come sta Tyson? Sta benissimo, si è fatto la camminata, ha fatto i suoi bisogni, adesso se ne deve andare a casa e si può ricare. Ho capito, io devo portarlo più tardi, tra un po' lo porto la forza d'aria. Ehi, ma perché? Lasciamo perdere, certo che ha fatto il tutto. Comunque mi ha detto male, quella lì è scaricata da internet, di questa stazione. Quella stazione è stata scaricata da internet, ho trovato la pagina, uguale identica. Ma tu mi devi fare una fotografia sull'apparato a casa tua, non mandarmi la fotografia che c'è su internet, e così è preoccupato, adesso va più preoccupato lui, allora io me ne prendo un bel affare. Stai parlando con me? Andiamo bene, andiamo. Gianni? Sì? Stavi dicendo a me oppure a un altro? Ah, lui, a Cinco, stavo dicendo. Ah, mi stavo preoccupando, stavi dicendo a me. Perché ha detto che ci ha preso la stazione base, poi mi ha mandato la stazione base scaricata da internet e c'è scritto amplificatori, stazioni base, si è fottito malissimo. Tutti i vortici. Thank you.